Dal prossimo 14 luglio finirà il supporto per Windows Server 2003. Sei pronto ad aggiornare la tua infrastruttura IT? Passa ora al cloud con Aruba. Vai su cloud.it e prova gratis i nostri servizi con la tecnologia Microsoft Hyper-V. Con Aruba passare al cloud è facile, rapido e conviene. Vai ora su cloud.it. Che privilegio partecipare alla trasmissione più cool in circolazione. Grazie ragazzi. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ciao Platini, mi raccomando, sogni d'oro. Ci dobbiamo chiarire? No. Ma non credo proprio. No, dopo... Platini, De Laurentiis e De Laurentiis. No, magari dopo le sue dichiarazioni. Lui va per la sua strada, io vado per la mia strada. Quindi non si sono incrociate queste strade stasera? No, gli ho soltanto dire, lo cambieremo questo calcio? E gliel'ha detto? O ci sarai ancora fra 100 anni? Forse sì, spero di no. Buonanotte, buonanotte amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo. Ti ringrazio per avermi stupito, per avermi giurato che è vero. Fatto pace con De Laurentiis, questo ci interessava. Sì, questo è il più importante. Siete parlati a parte scherzo? Forza, siamo molto amici. E cosa le ha detto? Ma non lo so che cosa ha detto, le ho detto, non mi ricordo. Buonanotte, questa notte è per te. E lui cosa ha risposto? Si è fatto una gran risata e ha detto fra 150 anni ci sarò ancora. Quindi lei non è contento? Sì, perché questo è il mondo, questa è l'Italia, finché non lo cambieremo dando un calcio al passato e creando il futuro non cambierà mai nulla. Quindi riassumendo, le posizioni restano quelle di prima? Meno. Je dis à la française, je suis De Laurentiis, lui le Platini. Buonanotte, buonanotte fiorellino. Ragazzi irresistibili, cioè... Jack Lemmon e Walter Matthau, quelli di Zelig, Jerry Lewis e Dean Martin, fate voi la coppia, anzi vi invito 800240024 a trovarmi qualcosa di più divertente di Platini e De Laurentiis ieri fianco a fianco e con loro anche Tavecchio a Ginevra a vedere la nazionale. Ciao Pierluigi Pardo. Come va? Ti viene in mente qualcosa di più divertente? Ma no, però pensavo ai poveri stadini al Chato. Sì. No, perché mi sono rivisto in quella situazione in qualche modo, è anche simile a questa cosa la fa anche Ferrero ogni tanto, no? Cioè, sì. Sono delle volte tu fai delle domande, ti rispondono, ma in realtà non ti stanno rispondendo, cioè non ti dicono niente. E la sensazione è che tutti e due, insomma, al di là del divertimento, del giochino, della butade, poi alla fine ci abbiamo capito niente, non so neanche se abbiano parlato in realtà di Napoli-Dnipro, che poi era il motivo del contendere, o dei poteri in Lega, insomma, dei poteri a livello europeo, insomma, degli arbitraggi, quindi poi alla fine è tutto abbastanza pretestuoso, come certe volte quando Ferrero non ha voglia di rispondere, no? Che la sì, fai giro, la butti in cacciara, bella gravatella. È puro cinema, puro cabaret. Giorgio De Luca, il nostro autore, Daniele Melchiorri in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Ho un altro paio di cose da farti sentire su De Laurentiis, poi parliamo anche della nazionale, parliamo di mercato e Ibra non viene perché sta al Paris Saint-Germain, motivo, Paris Saint-Germain ha chiesto soldi, grano, 10 pare. E quindi mi ha detto no, aspetta un attimo, forse ci ripenso su Ibrahimovic. Poi c'è la storia divertente, no, non è divertente, però è curiosa, di Vidal, all'inizio grande protagonista della Coppa America. Oggi c'è una foto sulla Gazzetta, poi vi dico anche la pagina, Vidal che arriva all'allenamento con la Ferrari rossa fiammante. Questa mattina sui siti la stessa Ferrari, non è più rossa fiammante, è finita nel fango, e Vidal accusato di guida in stato di ebbrezza. Poi parliamo anche di questa suggestione, così come di una divertente campagna abbonamenti della Juventus, a quanto pare mutuata da un club di quarta divisione, di quarta serie spagnola. argomenti di contorno, intanto sentiamo di nuovo De Laurentiis su... abbiamo sentito su Platini e adesso su Tavecchio. No, io non sono preoccupato degli stranieri, io sono preoccupato piuttosto dei bilanci delle nostre società, perché ne parlavo con Tavecchio e Tavecchio mi confermava che probabilmente soltanto 3 società potrebbero iscriversi al campionato. E quindi questo mi addolora moltissimo, che poi dobbiamo sempre metterci una pezza da italiani, perché poi si va avanti così e via con quest'Italia che a qualunque costo la deve far franca. Io ho sempre detto, ragazzi, sediamoci, risettiamo tutto. Ci manca solo il campionato a 3 per Luigi. Triangolare. Il triangolare, sì, trofeo Biramoretti, 45 minuti per tempo tutte le domeniche. Speriamo di no. Credo che il Napoli, non lo so, in queste parole leggo anche un po' l'attenzione del Napoli ai bilanci, cosa sacrosanta peraltro, eh? Ecco il focus che ha in questo momento il presidente del Napoli, che qualcuno a Napoli può scambiare maliziosamente per voglia di risparmiare e di ridimensionare. Però il discorso in assoluto è, per carità, è validissimo, insomma, sul fair play finanziario. Poi all'estero vediamo delle cose, l'ha detto in qualche modo anche Pallotta nella conferenza stampa di ieri, all'estero vediamo dei club che praticamente fanno il finanziamento interno attraverso la sponsorizzazione e in questo modo riescono abbastanza agevolmente a superare le barriere del fair play finanziario. Quindi poi alla fine il tema è complesso e siccome questo ormai è un mercato globale, il problema non è soltanto avere dei bilanci in salute, ma avere dei bilanci in salute e riuscire al tempo stesso a competere con le grandi potenze che ci sono in giro per l'Europa, e questo è un po' più complicato. Sì, intanto Milan e Inter si affannano all'inseguimento della Juventus. La notizia di oggi è che il Milan avrebbe dato via libera all'Inter per Miranda e Imbulà, avevano gli stessi obiettivi. Galliani ha chiamato Fassonetto, senti, va avanti tu che magari ci riesci. Adesso abbiamo il traffico, poi vi chiedo, vi è piaciuta la vetta internazionale? Vi è piaciuta? Non credo, non un granché. Ne parliamo tra poco. Dicono sempre che io sia un visionario, fino adesso ho sempre indovinato. Senta, questo calcio deve cambiare molto. Tutti convocati. Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. Vi presenta convocati. Dispiace, al di là del discorso dell'imbattibilità, dispiace e deve dispiacere sempre perdere. Detto questo, penso che queste sconfitte siano salutari, facciano parte di un percorso formativo, soprattutto per tanti di questi calciatori che si stanno affacciando per le prime volte in esperienze internazionali, in campo internazionale. È giusto che si capisca che tipo di livello di calcio si gioca in Europa. Io penso che questo sia molto importante, ecco, proprio a livello di costruzione, ecco. Senti Nicola, questa sconfitta avrà delle conseguenze perché l'Italia non sarà testa di serie per le qualificazioni alla fase finale del mondiale. Di questo voi avevate parlato prima di questa partita oppure lo avevate un po' sottovalutato, ne avevate parlato poco? No, lo sapevamo, ne abbiamo parlato prima della partita e perciò era importante vincere, siamo dispiaciuti per questo. Questi erano Conte e Sansone dopo la partita di ieri sera. Allora, ieri pomeriggio gli auguri glieli ho fatti in contumacia, grazie al messaggio di un ascoltatore, oggi li faccio di persona con un giorno di ritardo. Ciao Gianni De Biasi, buon compleanno postumo per ieri. Ciao Carlo, ciao. Ciao Gianni, i tuoi il regalo però te l'hanno fatto in anticipo sabato. Francia, sì, battuta. Non gliel'avevo chiesto sinceramente perché manco lo sapevano che compivo gli anni due giorni dopo, tre giorni dopo, e credo che comunque sia stata una bella partita, un bel risultato importante che ci dà quelle soddisfazioni che viviamo anche di quelle. Eh beh, certo, non contava per i 3 punti, però è un altro scalpo eccellente appeso allo spogliatoio dell'Albania, no? Dopo il Portogallo sì, però il Portogallo aveva più senso perché erano i primi 3 punti e la prima partita di qualificazione all'Europeo, e vincere è lì è stata veramente una cosa fantastica. Qui secondo me abbiamo dato la continuità della partita che abbiamo giocato a Rennes a novembre, prima della partita con l'Italia, dove abbiamo pareggiato 1-1 e qui abbiamo vinto 1-0 giocando anche secondo me una buona partita, però con dei distinguo, perché quando tu giochi a fine stagione è molto più facile per una piccola squadra affrontare una grande squadra, che le motivazioni sono completamente diverse. Sì, questo si chiama, Pierluigi Pardo, percorso di crescita? Sì, si chiama percorso di crescita. No, la curiosità è capire se la pressione sta arrivando, nel senso che voi, grazie alle ottime prestazioni di questo periodo, state diventando una realtà, e immagino che insomma nascondersi è più difficile, dici. Ecco, si comincia a sentire, è cambiato dal punto di vista dell'umore. Da un lato farà anche piacere, immagino, però può essere anche, può anche rendere più complicato il percorso. Ma Pierluigi, noi sinceramente quando abbiamo avuto il girone con Portogallo, Danimarca, Serbia, che sono tre squadre sicuramente di caratura completamente diversa dall'Albania, avevamo già messo le armi sottoterra e quindi non c'era più possibilità di fare nulla. Poi la vittoria in Portogallo ci ha dato grande slancio, pareggiato in casa con la Danimarca che ci hanno recuperato a 7 minuti alla fine, e poi abbiamo avuto quella partita disgraziata lì in Serbia che ancora è subiudice per quanto riguarda il risultato finale, aspettiamo il verdetto del TAS di Losanna. Dopodiché contro l'Armenia abbiamo vinto una partita dove dopo 3 minuti siamo andati sotto per un'autorete nostra e siamo riusciti a recuperarla dopo aver preso 4 pali, e oggi abbiamo la convinzione che se non ci perdiamo strada facendo, come dicevi giustamente tu, le tensioni e le pressioni che ci sono sicuramente attorno ai ragazzi, vediamo dove andiamo a parare. Senti, Conte non ha ricevuto regali invece ieri, Gianni, si vede che ha fatto il cattivo. Prima sconfitta la sua gestione contro un mezzo Portogallo, contro un Portogallo che probabilmente ha fatto una partita accorta, che ha sfruttato quelle poche opportunità che ha avuto. Secondo me l'Italia ha fatto una buona partita, qualche giorno fa l'abbiamo vista contro la Croazia, secondo me fare una partita dove meritava di vincere in maniera anche direi netta per quello che si è visto in campo, e che non siamo riusciti a sfruttare le occasioni che abbiamo creato nel corso della partita. La differenza sostanziale sta lì, poi alla fine gli equilibri sono sempre sottilissimi tra vincere e perdere, però quello che conta secondo me è che rispetto alla partita di Milano l'Italia ha giocato nettamente meglio e ha avuto magari la fortuna di avere anche avversari con qualche giocatore in meno dal punto di vista della qualità. Modric, loro, è un giocatore importantissimo, e siamo a fine stagione dove tutti un po' con la testa, un po' con le gambe non ci sono più. Sì. E poi resta il fatto che insomma è vero, non riusciamo a trasformare le occasioni, Pier, però grandi attaccanti non ne abbiamo, è inutile stare a girarci intorno, eh? No, certo. Poi per quanto riguarda il discorso di ieri, sappiamo che c'è una naturale idiosincrasia d'Italia per tutto ciò che è amichevole, poi la conseguenza pratica del non essere testa di serie la rende qualcosa di diverso dalla richiesta. Ricorderete che anche l'Italia di Prandelli, con quel pareggio a Napoli alla fine del percorso, si incartò, no? È abbastanza tipico dei tratti del nostro calcio, sottovalutare certe partite anche se poi ci sono quelle conseguenze pratiche. E ma in Croazia mi è piaciuta, sì. Perché poi è vero, insomma, le assenze della Croazia, la partita senza pubblico, c'erano dei vantaggi oggettivi, ma rispetto a ottobre è un'altra vita. Sì, certo, novembre, quando certo, era un'altra certo. Vita, mi sembra che insomma stavolta, mentre a San Siro avevamo ricavato con quasi una sensazione di potenza, cioè di essere noi i più deboli, specie contro la Croazia, era molto diverso. Sì, mi sembra si siano ribaltati, cioè si siano quantomeno avvicinati i valori in campo. Poi ha ragione Gianni quando dice a novembre è un conto, a fine stagione con la spia della riserva costantemente accesa e l'idea alle spiagge delle vacanze è un altro film. Gianni, come vedi Mihajlovic al Milan, Sarri al Napoli e Benitez al Real Madrid? Ma innanzitutto credo che Mihajlovic abbia la personalità e ormai anche l'esperienza per affrontare un impegno così importante come quello di Milano. Poi dipende da quanto sarà assecondato dalla società in base alle richieste che lui farà per il tipo di calcio che vorrà proporre. Per quanto riguarda Sarri, lì ci deve essere la società che lo deve spalleggiare tantissimo. perché il problema principale è passare da un piccolo ambiente come quello di Empoli, ma in una grande piazza come quella di Napoli, dove le esigenze sono tantissime, dove ci sono gestioni diverse dei calciatori. Però se gli viene accordata la fiducia e viene spalleggiato dalla società in maniera importante, credo che lui riesca a fare bene, ha l'esperienza, è intelligente e sa anche modellarsi, credo, in base alle situazioni che Invece Benitez è già un infortunato, perché penso capiti a pochi di fare una stagione che possiamo definire fallimentare, l'abbiamo fatto tante volte senza troppi giri di parole, e vinci il Real Madrid. È un'incomprensione del calcio, io credo che veramente il calcio è per certi aspetti inspiegabile. Io credo che Benitez abbia avuto la possibilità di lavorare con i giocatori che lui ha richiesto in un progetto che è durato credo 2 anni, se non ricordo male, e dove, a parte la Coppa, la Supercoppa Italia vinta ai rigori agli ultimi minuti, il resto è una squadra che ha preso 54 gol in questo campionato, una squadra che ha preso più gol di tante squadre che lottavano per non retrocedere. Da quando è arrivato in Italia io ho sempre detto che il Napoli dovrà lavorare meglio sulla fase difensiva, perché non può lasciare i 4 lì a difendere, per quanta qualità potessero avere, ma non ne avevano tanta. Non era come quando c'era Baresi e Costa Curta e Maldini a difendere e Tassotti a difendere il Milan. Lì si arrangiavano anche contro 10 avversari, perché lo spessore dei giocatori individualmente erano decisamente più bravi. Ma questa squadra non giocava da squadra, quindi giocava con i 4 offensivi, i 2 che aiutavano, i 2 centrocampisti centrali, il resto si dovevano arrangiare da soli. E secondo me è una squadra che vuol vincere deve prendere decisamente meno gol. Per chiudere, Gianni, facciamo un omaggio insieme alla primavera del Torino che ha vinto lo scudetto. Sono molto contento, ritorniamo ai fasti di un tempo, al periodo di Vatta in cui il Toro dettava legge a livello di settore giovanile. Credo che questo sia un bel presupposto, perché è nella mentalità e nell'idea del tifoso, della società, di provare a lavorare su giocatori magari provenienti dal settore giovanile e portarli in prima squadra, quello che è sempre stato fatto nel Torino degli anni che furono. Grazie Gianni, buon lavoro. Grazie a voi, un abbraccio. Ciao. Ti seguiamo sempre da molto vicino, Gianni De Biasi, CT dell'Albania. Ci fermiamo per la borsa, poi torniamo anche con gli ascoltatori. 800240024. Torniamo parlando di mercato e Ibrano al Milan. E Milan e Inter che stanno arrancando nel tentativo abbastanza vano di correre dietro la Juventus. E la Juventus e Tevez, e Marotta che dice: ma però Pirlo potrebbe anche restare, ma dove, ma perché? Questo è il momento in cui secondo me invece la Juventus deve rinfrescarsi, approfittando anche delle debolezze altrui, e poi proveremo a capire magari se Higuain lascerà il Napoli. Ne ha parlato anche De Laurentiis, se poi ve lo facciamo sentire. Insomma, di tutto questo e altro ancora aspettandovi. 800240024 è il numero verde. Caruccio, bravo Bardo, bravo. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. Vi presenta. Che dire? Arrieccici. Tutti convocati. Cosa grida l'allenatore in panchina? Attaccare! Ma devi gridarlo forte. Attaccare! Quindi prova a sentire se ti sentono. Attaccare! Più forte! No, più forte! Più forte, perché attaccare, è nello stadio! Attaccare! Ma dai, più forte! Attaccare! State a vedere! Attaccare! Ora, questo è un video diventato famoso. Berlusconi e Inzaghi. Berlusconi che... Vabbè, avete sentito cosa dice Inzaghi? Ma più forte! Attaccare! Sei nello stadio, non ti sentono! Poi so anch'io che la trattativa si incarta per 300.000 euro, perché Inzaghi alla fine può anche essersela presa, no, per questo trattamento. Walter, provincia di Macerata, buongiorno. Da lei. Senta, non so se sono ancora arrabbiato oppure deluso da quello che mi è successo. Siamo stati in Spagna, a Barcellona, io e la mia compagna e la mia bambina di 15 mesi, che si chiama Paola, e siamo stati alla bottega. al Camp Nou, un negozio straordinario del Barcellona, fantastico. Allora abbiamo comprato un completino per la mia bambina con scritto nome Paola sopra. Siamo andati a Cittadella Marche, al lungomare, e la mia bambina è abituata a salutare tutti perché è piccolina, ancora non capisce. E abbiamo incontrato a 15 metri di distanza tre individui che mi hanno fatto dei gesti, vabbè, potrei star qui a dire. E io non so se erano sotto l'effetto dell'alcol come vi dà, ma non credo, io penso che erano sotto l'effetto della loro massima espressione di intelligenza che potevano esprimere in quel momento, perché hanno fatto dei gesti incredibili, volgari, incredibili. È una bambina di 15 mesi. Ah, la stupidità, la non mia la compagna confine, non si è accorta volta. Perché sennò si cedeva il disastro, veramente. Io sono deluso, veramente deluso. Un episodio di ordinaria imbecillità, no, di straordinaria imbecillità. No, non penso ci sia molto altro da aggiungere. Mi spiace solo per la bimba, mi auguro avrà capito poco. Guarda, mi spiace più che altro per delle menti così così piccole. Mi dispiace per loro. Vabbè, comunque la bimba continua a tenersi completino il Barcellona, che è stato bellissimo. Giuseppe Modena, buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione. Ascolti, io ma secondo lei, Giuseppe, non so se lei è milanista, ma secondo lei se Berlusconi va da Mihajlovic e si comporta alla stessa maniera, tu devi gridare attaccare! Mihajlovic che cosa fa? Conoscendo Mihajlovic, conoscendolo per quello che si vede, da è il giocatore, allenatore, non lo so, finisce che lo attacca. Finisce male, finisce a pacche, come diciamo noi dalle nostre parti. Ascolti, no, beh, io peraltro non sono milanista, sono fiorentino, anche sono di Modena, tipo fiorentina da una vita, essendo non più un ragazzino. E no, niente, io dunque questa settimana nel mio paese si sta svolgendo un Fiorentina Camp, una settimana dedicata dove ci sono 35 bambini con la maglia della Fiorentina, ma al di là di questo, e sto vedendo che chiaramente c'è da parte delle società, non è solo la Fiorentina che fa i camp, ma anche altre società organizzano questi camp estivi. Ho visto, non per ultimo, il trionfo del Torino, al quale va un plauso per la vittoria che ha raggiunto, e poi dopo, e quindi ho visto le partite anche della Final Eight, e poi dopo mi chiedo però adesso com'è possibile che poi in Serie A a sfondare non siano questi ragazzi, o meno una parte, ma vengano così, come posso dire, abbiano il sopravvento gli stranieri, niente a avere con gli stranieri, ci mancherebbe, quando però noi abbiamo delle promesse. Glielo dico, posso dire la mia opinione, che vale per quel che vale, perché il calcio giovanile è un'altra cosa, il calcio dei grandi è qualcosa di diverso. Bisogna trovare il modo di far crescere i nostri giovani nel calcio degli adulti, quindi poi chiamatele squadre B, chiamatele, però in campionati diversi che non siano quelli giovanili. Questo secondo me vale in tutti gli sport, perché il parametro vero è quando cominci a giocare nel paese che vuoi, al livello che vuoi, ma con quelli più grandi di età, intendo, e di esperienza, e di malizia, e di cattiveria. Saluto un principe dei procuratori come Claudio Pasqualin. Ciao Claudio, buongiorno. Ciao, ricambio cordialmente. Ciao. E se mi permetti, dico la mia. Oltre a quello che tu puntualmente hai detto, oltre a questo, per far giocare i giovani della nostra Serie A basterebbe una semplice, elementare norma, al di là delle implicanze giuridiche, bisogna comunque vararla, che dica letteralmente: tu puoi tesserare quanti stranieri vuoi, d'accordo, però ogni domenica devi mettere in campo almeno 8, dicono sì, 8 giocatori convocabili con la nazionale. Io non capisco perché questo Tavecchio non lo faccia, perché la federazione continua a essere inerte sul punto, blaterando, absit iniuria verbis, perché ho detto involontariamente blatter, l'ho nominato, blatterando di leggi Bosman, di norme sulla libera circolazione. Che c'entra? Tesserane quanti vuoi, se sei così suicida da continuare per motivi solitamente extratecnici a comprare all'estero, fallo, però tu sappi che la domenica voglio vederne in campo 8 di italiani. Allora anche i nostri giovani potrebbero giocare. A me non dispiace neanche l'idea spagnola della squadra B, con totale sinergia tra prima e seconda squadra, sicuramente meglio che lo stato attuale, ma sembra che in federazione la preoccupazione, prima, con tutti i guai che hanno personalmente, sia quella di non spostare una penna della scrivania da qui a là, insomma, sì. No? L'inerzia assoluta, avanti, così. Dovrebbe essere tornato anche Pierluigi Pardo. Vi stavo ascoltando bene qualche minuto. Devo dire che sì, insomma, è chiaro che la ratio di questo eventuale provvedimento è stracondivisibile. Credo che ci siano dei problemi proprio di affabilità giuridica, perché è vero che non impedisce l'acquisto di giocatori stranieri, però di fatto finisce per discriminarli poi a livello di normative, quindi credo che sia questo il punto. Certamente la nazionale ne trarrebbe beneficio, su questo non ci sono dubbi. Penso che il modello spagnolo della squadra B è un modello che possa funzionare, e poi c'è una battaglia culturale sul non volere tutto e subito, sull'attesa, sì. Non fare polemica ogni singola settimana, insomma. Sì, sì. E noi da questo punto di vista siamo un calcio molto stressante, molto frenetico. Sì, sì, certo. Anch'io, certo. Cioè, no, ma vale per tutti, le pressioni, siamo tutti d'accordo. Quindi, tante volte questo ti porta a non rischiare un ragazzo perché vai sulla strada più sicura. Perché dici, ho paura di bruciarlo quando magari hai paura di bruciare te stesso allenatore. Ma senti, Claudio Pasqualin, Ibrahimovic non viene al Milan a quanto pare perché il PSG ha chiesto soldi. Tu come l'avresti, come lo vedevi questo affare? L'ho sempre visto difficile, complicato, come tutti peraltro, perché i numeri ovviamente sono proibitivi, no? Il guadagno del Dovanotto in più, il diritto legittimo del PSG di vedersi pagare il cartellino, per così dire. Quindi io credo che sia una storia che andrà avanti ancora. Chi la tratta ha le capacità e ha dato ottima prova di sé in passato, parlo di Raiola ovviamente, sì. Per far sperare al Milan che possa avere un esito felice, ma la vedo molto ma molto complicata. Milan e Inter stanno arrancando, forse arriverà Miranda all'Inter perché il Milan ha detto va bene non lo tratto più, però stanno arrancando e chiudendo poco nel tentativo di correre appresso alla Juventus. Vedo una strada lunga e molto difficile. Marotta glissa anche sul caso Pirlo, ma forse la Juventus dovrebbe approfittare del momento totale di impasse di tutte le altre per avviare con calma il suo ricambio generazionale. Ma io credo che lo stia facendo, guarda, hanno cominciato con Dybala e credo che Marotta sappia bene che alla fine Tevez ne andrà e che quindi lavori di conseguenza. D'altra parte siamo agli inizi di una giostra che si chiuderà il 23 di agosto, quindi voglio dire, cioè, l'arbitro di quella domenica darà il primo fischio, insomma, alle 15 presumo, sì, comunque sì. La sera del 23 agosto. Insomma, dire che ancora non si batte chiodo è prematuro. È chiaro che ci sono le schermaglie, le trattative di sempre, è chiaro che gli affari veri si fanno adesso e non certo più avanti, però può benissimo succedere la settimana prossima o comunque entro un mese, il tempo ce n'è tanto. Pier, sei di questi anche tu, cioè la Juventus deve cioè Pirlo, Tevez che probabilmente va via, magari qualcun altro, magari dei ritocchi da fare in difesa, tutto sommato ha un vantaggio tale per cui può permettersi di programmare addirittura una piccola ricostruzione. Sì, guarda, Pirlo e Tevez sono due scelte di vita, ma sono due scelte di vita completamente diverse, perché Tevez impatta sugli equilibri offensivi della Juve molto di più di quello che possa impattare Pirlo a centrocampo, penso che Pirlo, se rimarrà, sarà comunque un giocatore che farà delle rotazioni, che magari darà un contributo comunque eccelso viste le sue enormi qualità, ma lo farà non sempre. Se rimane, mi pare di aver capito abbastanza chiaro, abbastanza evidente, rimane senza la certezza del posto fisso. È cosa che a lui non piace, eh? Non gli piace, lui gioca pure l'amichevoli contro il Portogallo di Nazionale. Da questo punto di vista è un giocatore encomiabile per la voglia che ha sempre, ed è anche chiaro che non è un giocatore facile da tenere in panchina, ma una volta che abbiamo chiarito l'equivoco che Allegri non ce l'aveva con Pirlo, cosa che alcuni pensavano e che mi pare invece questa stagione si sia definitivamente chiarito, cioè quella fu una scelta tecnica legittima del Milan di non rinnovare a certe cifre il contratto e sappiamo com'è finita, ma insomma adesso io credo che Allegri sarebbe comunque nelle condizioni a diciamo lo spessore, l'immagine, l'autorevolezza eventualmente anche per poter fare delle scelte da questo punto di vista, quindi non credo che sia un grandissimo problema. Tevez cambia molto il mercato. Penso che invece, tornando al discorso di prima, dipende un po' dai fuochi d'artificio di Raiola e dalla voglia di Ibra in Milan, nel senso che il Paris Saint-Germain ieri ha fatto capire la cosa che era ovvia, cioè che vuole dei soldi. Non ti do via gratis. Che era quello che Milan voleva. A questo punto bisogna capire se cominciano le moine, no? Su tutte quelle operazioni di disturbo delle quali parlava Pasqualini, dei quali Raiola fra l'altro è particolarmente dotato, per riuscire a destabilizzare o a complicare il quadro al Paris Saint Germain. Molto dipenderà anche dalla voglia di Ibra. Cioè, se Ibra ha un mal di pancia fortissimo e non ricomponibile è un conto, se Ibra ha un piccolo mal di pancia e poi alla fine magari era una suggestione ma rimane tutto sommato volentieri a Parigi, allora praticamente a quel punto è già finita, a meno che il Milan non voglia fare un investimento monstro per lui. Rimaniamo un attimo borsa, poi chiudiamo discorso con Claudio Pasqualini ma anche con Pierluigi Pardo. Non borsa, traffico naturalmente. Attaccare! Tutti convocati. Convocati. Beh, le sensazioni sono quelle di gestire un campione che viene sicuramente ricercato da tanti club importanti, ma noi abbiamo sempre detto che non abbiamo intenzione di cedere quello che è un valore assoluto di qualità e quindi rappresenta un aspetto patrimoniale rilevante e che ci dà la possibilità di allestire una squadra che, ripeto, possa rispondere a quelli che sono gli obiettivi prefissi. Questo Marotta su Pogba, morale della favola o ce ne danno davvero tanti o Pogba ce lo teniamo, e mi sembra un ragionamento che possa fidare. Claudio Pasqualin, ti chiedo ancora questo, un nome per Mihajlovic, uno per Mancini e uno per Sarri, magari dovesse andare via Higuain? Ma sai, per Mancini si fa un gran parlare in queste ore di Miranda. Così come per ovviamente per il Milan rispunta, per così dire, l'idea Boateng, e per chi magari non è troppo caldo di fronte a questa prospettiva preoccupa la circostanza che un mese fa ci sia stato un colloquio tra Giovanotto e Berlusconi. Questa è una situazione preoccupante per chi Boateng si auguri magari che non venga, insomma, anche perché evidentemente in Germania non ha fatto benissimo. E poi mi chiedevi di Sarri, e per Sarri bisogna pensare a qualche italiano, ovviamente andare a cercare tra quelli che lui ha allenato all'Empoli, e quindi il primo nome che viene è Valdifiori. Valdifiori che arriverà. C'è De Laurentiis che ha parlato di Higuain, lo sentiamo? Se un giocatore ha un contratto, questo contratto va rispettato. Poi se arriva un pazzo che offre una clausola rescissoria, uno ci pensa. Affinché questo non accade, Higuain è un giocatore del Napoli. Sembra un po' la storia di Cavani, Claudio. Storia di Cavani, e il pazzo poi arriva, no? Il pazzo poi arriva magari. Con la simpatia che lo caratterizza De Laurentiis. Ha detto ovviamente che Higuain costa l'inarrivabile clausola, però sicuramente delle trattative al di là della clausola ci saranno, e io credo che sotto sotto la Roma, che pensa al grande attaccante oltre a Dzeko, stia pensando anche al colpissimo Higuain, però ci pensa per ora, perché effettivamente trattare col simpatico De Laurentiis è difficile. Non è facilissimo. Grazie professore, grazie Claudio Pasqualin, alla prossima. Aggiungo anche Carlo, che poi esattamente come Fischer, per un discorso di anche la condizione alla quale il Napoli dovesse finire di cederlo, io ti sento più Pierino. Proviamo a richiamarlo, non sono riuscito a capire l'ultima che hai detto. Arthur Modena, buongiorno. Salve, buongiorno, grazie per la convocazione. Ascolta, io vi sento sempre oggi per quanto riguarda la questione dei giocatori stranieri, per agevolare l'inserimento dei ragazzi italiani. Ma guardate un po' le scuole italiane, i programmi, vai a vedere i ragazzi di scuola, quali sono le materie principali: matematica, scienze italiane, educazione fisica, che ruolo occupa? Zero, meno che zero. Il sistema scolastico italiano è così. Io vengo dall'Albania, ascolta, io vengo dall'Albania, mi dispiace che non ho potuto fare in diretta gli auguri al Mister, ma mi unisco a voi. Il mio professore di educazione fisica nelle scuole medie era il terzino a destra della squadra principale della città, che giocava in Serie A. Sì. Nelle superiori era equivalente del Pacchinardi dell'Albania. Sì, sì, sì. All'università sì. Il mio professore di educazione fisica era il padre di Glipare. E ancora i report rimangono lì. Queste persone facevano gli sportivi, una volta smesso, facevano l'educazione di professore di educazione fisica, la caccia di elementi nuovi. Sì, sì, sì. Si potrebbe fare un'operazione contigua tra Ministero della Cultura e Istruzione e le federazioni, i club, per non far sì che i ragazzi stanno dentro casa a giocare questo, con i PlayStation. Questo è tutto verissimo, ma però, sai che sai quanto è vecchio questo discorso? Ma ci vuole gente che abbia a cuore il lavoro, non solo il denaro, il proprio portafoglio. No, ci vorrebbe un sistema profondamente riformato e rimodulato, ci vorrebbero degli impianti degni di questo nome anche all'interno delle scuole. Il nostro sistema è questo qui. Devo anche dire che pure la passione dei nostri ragazzi nei confronti del lavoro duro dal punto di vista sportivo non mi sembra un granché. Ecco, io sono abituato a leggere un sacco di biografie di campioni stranieri di ogni sport e non credo che raccontino tutte delle balle quando dicono: mi alzavo alle 6 del mattino, andavo a nuotare 2 ore, o andavo a giocare a basket 2 ore al campetto, o andavo a correre 2 ore e mezza e poi mi facevo la doccia e andavo a scuola. Sono cose che in Italia raramente vediamo. Questione di cultura, di sistema, ma è un discorso profondissimo questo che è impossibile evadere in un attimo. Pensic, da Latina, spero di averlo detto giusto. Buongiorno. Buongiorno. No, volevo fare direttamente i complimenti a De Biasi, perché io sono ex giocatore di nazionale e allenatore adesso, però complimenti per il lavoro che ha fatto, ma non aspetto di punti che c'ha Albania, ma di un bel gioco, diciamo, ha cambiato tutto. Un aspetto che è un allenatore più amato per quanto certo. Mi riguarda me, sì, sì, adesso in Albania. Ma c'è anche un materiale diverso, comunque. Cioè, cominciano a esserci sì. Giocatori interessanti che sono andati a giocare all'estero, si sono fatti le ossa all'estero. Ci sono anche quelli che ha rifiutato la maglietta dell'Albania, mi viene in mente Berami, mi viene in mente Shaqiri. Comincia a esserci un bravissimo allenatore con le idee chiare e con un materiale all'altezza. E a questo proposito possiamo tornare al discorso di prima: se a casa tua non trovi spazio, il campionato non è competitivo o non hai soldi abbastanza, prendi la valigia e vai a giocare all'estero. Questo vale e dovrebbe valere anche per i vostri amati giovani giocatori italiani. Ci fermiamo, 800 24 00 24, dopo il GR ci troviamo. Attaccare! Tutti convocati. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da Interplanet.it, servizi innovativi di telecomunicazioni nel Veneto. Tutti convocati. Apertura sulla destra per Sabaleta, lo spazio per il traversone, ha segnato l'Argentina, Sergio Agüero. Breve riassunto sonoro di quello che è successo nella notte in Coppa America, quindi Paraguay che batte la Giamaica, che non è una rappresentante del calcio africano come sosteneva Cavani, ma di un altro posto. L'Argentina che ha vinto 1-0, bellissima partita, con l'Uruguay decide El Kun Agüero. Intanto nella notte, allora, andiamo un passo indietro, pagina 22 della Gazzetta dello Sport di oggi, fotografia di una Ferrari rossa fiammante didascalia dopo la splendida prestazione, i due gol segnati al Messico. Ieri Arturo Vidal si è presentato al campo di allenamento a Santiago con una splendida Ferrari 458 Italia rossa, che ha ovviamente attirato l'attenzione dei fotografi al seguito del Cile. Ha attirato l'attenzione dei fotografi di tutto Cile e di tutto il mondo anche l'immagine di quella stessa Ferrari coperta di fango e distrutta, cosa avvenuta nella notte dopo che il nostro aveva fatto una capatina con la moglie al casinò e forse, lo dicono le cronache, aveva alzato un po' troppo il gomito. Per fortuna nessuno si è fatto male, lo dice Vidal. Hola, hoy tuve un accidente tránsito, no fue culpa mía, yo estoy bien, mi familia está bien y gracias por todo. Maurizio Crosetti, buongiorno da Repubblica. Eccoci, buongiorno. Vidalito, ma questi guardrail che in Cile vanno a sbattere contro le automobili, devi stare attenti, tu sei lì che guidi tranquillo, ti volti, c'è un semaforo che ti viene addosso, è un posto incredibile per guidare. Sì, sì, è un posto incredibile, pericolosissimo, è tutto semovente lì. E quindi ci sono dei paracarri che proprio schizzano a destra. Li hai visti tu, vero? Li hai visti tu con i tuoi occhi? Ti vengono addosso, eh? Ma anche le bottiglie si riempiono da sole di alcol, se non stai attento il bicchiere ti si ficca in bocca, roba incredibile. Li hai visti tu con i tuoi occhi? Tutto visto con i tuoi occhi? Tutto visto da me. Senti, ma se a partire fosse proprio Arturito, io non credo, non andrà via dalla Juve. A proposito, il procuratore di Tevez ha appena comunicato alla Juventus che Tevez vuole andare al Boca. Non è una grandissima giornata, devo dire, tra la Ferrari e Tevez, per carità. Che il nostro ragazzo ogni tanto avesse la predilezione per i Gabriel si sapeva, e che Tevez avesse la predilezione per la nostalgia anche, però indubbiamente tutte e due insieme fanno un po' specie, anche perché stiamo parlando di due colonne tanti della Juve. Vidal quest'anno un po' meno, ha giocato un mondiale, lo sappiamo, recuperando in fretta, non riuscendo a essere poi a posto, suo ginocchio era malconcio l'anno scorso in Brasile, e poi non è riuscito proprio mai per questioni sue, adesso a parte gli scherzi, sì, di varia natura, tecnica e non, fino a quei 12-13 minuti da prova del palloncino contro il Barcellona nel primo tempo, quando ha rischiato di farsi cacciare fuori. Poi in realtà nel secondo ha corso per tutti, anche per Pirlo, sì, si è un po' ripreso, però indubbiamente Vidal è un giocatore che andava venduto l'anno scorso e certamente forse primo anche che due non anni abbia fa tutto questo mercato, Andrea, io lo venderei subitissimo, ieri, sì, lo venderei. Sì, Tevez è il segreto, uno dei segreti di questa eccezionale annata juventina. E non sarà così facile replicarlo, non sarà facile. No, però dicevo, discorso che facevo prima, con il Milan che prova a prendere Ibrahimovic e poi magari prende Boateng. Con l'Inter che non scappa da ridere, però. Ma che a me fa molto ridere. Non dire così, sei un fino umorista, però non mi puoi dire ste robe dopo pranzo. Cioè, vabbè. Che è cronaca, cioè Ibra. Voglio Ibra gratis. No, Ibra costa, magari 10 milioni. No, aspetta, allora che Boateng. Melissa, ci sei? Andiamo a Milano, no, torniamo a Milano. L'Inter, buon giocatorino, ma insomma niente di più. Bravo, l'Inter che voglio questo, voglio quell'altro, e chissà se piglierà qualcuno. La Juventus ha un margine di manovra talmente alto, dicevo prima, talmente largo, che potrebbe addirittura improvvisare una mezza rivoluzione. Pirlo, nonostante le parole di Marotta, farebbe benissimo ad andare a vivere un'altra storia, un'altra avventura e a guadagnare molti soldi. Magari Vidal, Pogba, vediamo se ok il prezzo è giusto. Di Tevez abbiamo detto, la Juventus ha il margine per fare questa sorta di rivoluzione. Sì, ma ha il margine e sa anche usarlo, perché comunque negli ultimi anni non aveva solo maggior margine, ma io credo anche maggiore lucidità sul mercato e forse anche per certi versi maggiore intuito, tempismo. E quindi, per carità, sono rimaste queste doti anche in questa prima parte del mercato, perché comunque Dybala e Khedira sono due colpi molto importanti. Sicuro. E non solo perché la disponibilità, perché sei anche capace di farli, di anticipare gli altri. Poi Dybala anche perché la disponibilità, perché Khedira era svincolato, Dybala costava tanto e la Juve ha pagato prima e meglio degli altri. Però ripeto, l'alchimia Tevez-Morata non è una cosa automatica, certo. Tevez è giusto lasciarlo andare se ha deciso così, e devo dire preferisco da sportivo, insomma, che davvero vada eventualmente in Argentina, perché se era tutta una manfrina, no, quella della nostalgia, poi questo andava all'Atletico Madrid, allora lì cominciava a capirlo meno. Esatto, bravissimo, cioè se dici torno a casa, torni a casa, e allora diventa una questione di soldi, sì, ma relativa, altrimenti è proprio una questione di soldi pura, e allora basta dirlo che non c'è nulla di male. Sì, certo. non proprio perfetta la dirigenza juventina nella gestione del caso Tevez, secondo me. Non proprio così attenta ai tempi, eh. Però alla fine, se un giocatore decide diversamente, tu puoi farci niente. I tempi sì, è vero, però se lui è, e credo che siano parecchi mesi che l'aveva detto, da come ha parlato Marotta negli ultimi mesi, ripeto, non solo settimane, era chiarissimo che la Juve era quasi ormai rassegnata a perdere, anche ad accontentare un giocatore che ha fatto moltissimo in questi anni. Questo per lei sicuro. Questo sicuro, diciamo, ma che non mi sorprende per nulla, anche se, ripeto, non la risolverei a cuor leggero dicendo beh, però hanno già preso Dybala, Morata è molto forte, Zaza, Berardi, forse un Mandzukic, forse chissà Cavani, è tutto verissimo, però stiamo parlando del giocatore più importante degli ultimi del lago della bilancia, la cartina tornasole della forza della Juventus, di quello che è stato anche il leader emotivo di questa squadra, non solo tecnico, se mi permetti. Beh, sì. I gol che ha fatto e lo spirito da grande trascinatore, da uomo tutto, è anche ineccepibile nel comportamento. Cioè, è stato un giocatore perfetto, esemplare. Sì. Perdere i giocatori esemplari non è facile, ma la Juve effettivamente anche lei è stata quasi esemplare quest'anno. E quindi immagino che sapranno farsi una ragione, anche perché, diciamolo chiaramente, tornare in finale di Champions è quasi impossibile. Vincere il campionato è quasi scontato, indipendentemente da Tevez. Tutte e due le cose rimarrebbero le stesse con o senza Tevez. Senti, perché in finale di Champions ci arrivi proprio, deve andare tutto benissimo. Beh, chiaro. E il campionato lo perdi se impazzisci con questa concorrenza, anche se un pochino sta cambiando il panorama e forse qualcuno sarà un pochino più robusto. Di sana e robusta costituzione, sì. Però insomma, vediamo, mi sembrano ancora molto lontani gli altri. Troppo. Senti, altra roba divertente: se ti dico Club Deportivo Badajoz, cosa mi dici? Beh, ne parlavo giusto questa mattina in riunione, abbiamo parlato molto, era uno dei temi della maturità, diciamo, no? E io uno dei temi della traccia. Hai sentito questa traccia? Beh, sì, non avevo alcun dubbio, conoscendoti un pochino, per spiegare agli ascoltatori in una parola. Campagna abbonamenti della Juventus, c'è questa ragazza molto aggressiva con la faccia zebrata che urla con grande agonismo e poi si scopre che quella stessa ragazza, quella stessa faccia zebrata, quello stesso agonismo in quello stesso urlo, non di Munch ma quasi, lo ha usato un club di stessa foto, quindi stessa campagna, un club di quarta divisione spagnola. Questi l'hanno presa sul ridere, hanno detto ma sì, lo so che è plagio, venite qui, giocate un amichevole. La globalizzazione è anche un po' copiare, dai, quando un'idea è bella si accattivano, visto che è il giorno della maturità, copiare non è bellissimo e bisognerebbe lasciare i cellulari sulla cattedra, perché se poi ti beccano ti cacciano dall'esame, ecco. Sì. Non so chi abbia copiato, però ha copiato male. Sì, questi hanno detto con grande signorilità, vabbè, ma ragazzi, venite qui, giochiamo un amichevole e facciamo finta di niente. Ah sì, dai. A quanto pare la stessa foto è stata acquistata due volte ed è stata utilizzata due volte. Io credo che ci sia, ma guarda, quasi inconsapevolezza, no? Non posso crederci, non posso credere altrimenti. No, non è possibile. Noi scherziamo, perché viva Dio, col calcio c'è ancora anche voglia di ridere un po', insomma, no? Però no, è evidentemente una coincidenza, dai. Sì. Può pensare che però per carità, a pensare male ci si azzecca sempre. Bravissimo. No, non penso male, per una volta non voglio pensare. Un'ultima cosa, Maurizio, avrai sentito anche sul web, avrai visto quel filmato di Berlusconi che dice Zaghi attaccare, dillo forte, dillo più forte, che sennò non ti sentono. Se va da Mihajlovic fa lo stesso. L'ho visto, ormai mi mette malinconia, sai? Come quando io avevo una zia, poverina, adesso non c'è più, che stava all'ospizio, ma non a fare volontariato sociale, purtroppo era ricoverata, e ogni volta io venivo via col magone. Ti basta. È così, cioè bisognerebbe riuscire a, come dire, a fermarsi sull'orlo della malinconia, prima del confine della tristezza che metti agli altri quando fai le cose, quando parli, quando ti presenti in un certo modo. Dovresti avere una mia cara amica, una grande collega, Emanuela Audisio, dice sempre, ma tu non ce l'hai un amico che ti dica questo non lo farei, cioè qualcuno che abbia proprio il massimo della confidenza, che ti voglia bene, venga lì e ti dica senti, ascolta, sai che c'è, questo no. Lui secondo me non ha avuto mai un amico che gli abbia detto questo no. In compenso ha sempre avuto, figlio, lascia stare. Sempre avuto un sacco di persone intorno che quando era giovane avrebbe avuto bisogno di qualcuno che ogni tanto gli dicesse Livio, credi a me, questo no. Adesso, proprio per non scivolare nel patetico, avrebbe molto bisogno di amici. Sì. Abbiamo bisogno tutti, peraltro. Invece ha sempre avuto ed ha tuttora un grandissimo stuolo di Leccaculo, e quelli non mancano mai, alla fine, seguendo come i gabbiani la scia del grano. Quelli non mancano mai. Lo dico veramente, non sembri sarcastico quello che dico. Ci ha messo veramente pena quest'uomo adesso. È una pena umana, cioè vorrei che lo fermassero, perché è malinconico vederlo così. Grazie Mauri, sempre un piacere. A voi. Ciao, grazie, ciao. Maurizio Crosetti. Attaccare! 800 24 00 24, e cominciano a scrivere: se Ibra tornasse invece alla Juventus, Juventini, che ne dite? Se Ibra tornasse invece via Tevez, e se Ibra tornasse invece alla Juventus, attaccare! Non credo, perché è un giocatore molto particolare, molto costoso, in là con gli anni. Credo che la Juventus abbia idee un po' più progettuali. Credo. Se Ibra andasse invece alla Roma, Ibra alla Roma, come lo vedete? Già meglio, ragazzi. Giorgio Brescia, buongiorno. Pronto. Buongiorno. Dica. Volete venire per il discorso riguardo alla Juve e il suo vantaggio abissale nei confronti delle altre squadre, che poteva permettersi una mezza rivoluzione? Sì. Solo che le rivoluzioni magari non vanno a buon segno proprio al primo colpo. L'anno prossimo noi ci ritroviamo a fare la figura dell'Inter. No, dell'Inter non credo, ma perché il vantaggio è talmente ampio che non intendo rivoluzione, smontare la squadra, rimontarla, però certamente avere la possibilità di... Sì, una bella rinfrescata alle carte d'identità, questo intendo, dei giocatori chiave. Poi... Speriamo che vada bene. No, ma non so se la faranno. È chiaro che molto dipende da cosa farà Pogba. Ha ragione Crosetti quando dice: Tevez vuole andare via, va al Boca. Scelta di vita, scelta di cuore. Se c'è chiarezza, nessun problema. Sostituire Tevez in questi meccanismi sarà complicato. Io però credo, anzi sono certo, che arriverà un giocatore dello stesso livello. Giocatore diverso, ma dello stesso livello. Ragazzi, sto per parlare di basket, perché in Italia la serie è sul 2-0, lo scudetto che nessuno ha mai visto, cioè a Reggio Emilia o a Sassari, nessuno lo ha mai visto, qualcuno lo vedrà, adesso è 2-0 per Reggio Emilia, Menetti. Sassari abbia giocato un'ottima partita, ma noi abbiamo giocato, credo, la parola migliore, una partita veramente coraggiosa, anche troppo in alcuni casi, perché magari dovevamo gestire il ritmo, ma credo che a questo punto della stagione, per quello che abbiamo fatto, noi dobbiamo avere coraggio e come vada vada. Cerchiamo con alta intensità, perché i nostri giovani stanno facendo ottimo lavoro. Perché non si può giocare in 5 o in 7, anzi neanche in 8. Tutti devono dare mano per giocare ogni partita, perché non si sa mai come andrà. Sono contento che ognuno è pronto, però è solo due partite, la serie è ancora lunga. Menetti, allenatore Cauchenas, braccio armato della Grissimbora Reggio Emilia, che sembra avviata sulla strada dello scudetto. In America invece questa l'avevano già vista, ma nel 1975. And the dream season is now complete. The Golden State Warriors are the 2015 NBA champions. Their first title in 40 years. And how sweet it must be for those crazy loyal Bay Area fans. L'avevano vista Simone Sandri da New York nel 1975, titolo a Golden State. Ciao Simone. Buon pomeriggio, sì, sono a Cleveland, non sono ancora tornato a New York. Sei ancora lì? Sì. È stata una serie finale veramente, veramente pazzesca e per certi versi incredibile. È la mia 17ª consecutiva che vedo dal vivo e credo che sia quella che mi ha sorpreso di più per l'evoluzione, per gli infortuni, per le prestazioni di LeBron e per il fatto che alla fine è riuscita la squadra che aveva dominato la regular season, è riuscita in un momento difficile, quando era sotto 2-1, a cambiare passo anche con delle mosse molto intelligenti da parte di Steve Kerr, a prendere finalmente fiducia in attacco e alla fine era abbastanza inevitabile che la squadra più forte, con un roster nettamente superiore, soprattutto dopo gli infortuni, alla fine vincesse nonostante un LeBron assolutamente superale. Sì, appunto, secondo me la parte più intrigante è stata la resistenza di Cleveland, senza Love, senza Irving, con LeBron in pratica lasciato solo nel deserto. Poi gli hanno tolto anche il centro e sai, la voglia di non morire mai sportivamente. È incredibile, veramente possiamo veramente riflettere su quanto sia stata incredibile la prestazione di LeBron, quello che ha fatto in questi playoff, ma anche in queste finals, perché essere 2-1 contro la squadra più forte della NBA, su questo non credo ci siano tanti dubbi, i Warriors, a prescindere dalle 67 vittorie in regular season, è veramente la squadra più apprezzata quest'anno nella NBA, con un roster veramente pazzesco, un roster che non ha nessun, praticamente non ha avuto nessun aiuto. Ed è riuscito a mettere paura sul 2-1, veramente a mettere paura a Golden State. Con la gara 4 è stata veramente decisiva, perché se qualcosa fosse andato in maniera diversa, veramente magari saremmo qui a parlare della più grande sorpresa nella storia dell'NBA. LeBron ha trascinato fino a quando ha potuto, non ha avuto il minimo aiuto se non un po' da Mozgov e un po' da Thompson all'inizio della sera, da Della Vedova, che sembrava diventato un giocatore straordinario, poi è tornato il giocatore, l'onesto giocatore, l'onesto comprimario che è, e alla fine comunque con questo LeBron è riuscito ad avere una serie, ma la logica invece avrebbe detto che doveva essere dopo l'infortunio di Irving e quello ovviamente di Love. Sì. Una dominanza totale, forse addirittura anche un 4-0 Golden State. Sì, sì, sì, infatti io non mi aspettavo una tale resistenza come ti ho detto. Steve Kerr, allenatore di Golden State, è stato un uomo di Phil Jackson ai Chicago Bulls. È possibile una dinastia di Golden State, Simone? È possibile per una serie di motivi. Prima, perché comunque è una squadra molto giovane, dovranno fare sul mercato dovranno operare bene, hanno dei giocatori in scadenza come Green per esempio, hanno comunque dei giovani giocatori che sono il futuro e il presente dell'NBA, Thompson e Kerr su tutti ovviamente. Sì, certo. E un allenatore che ha dimostrato al suo primo anno di NBA di essere veramente uno con delle idee anche da un certo punto di vista innovative, perché il suo modo di giocare, molti dicevano che il modo di giocare, che è un po' da un certo punto di vista forse quello d'Antoniano, anche se lui cura molto la fase difensiva, non a caso tanti parlano dell'attacco di Golden State, ma in stagione da un punto di vista statistico ha avuto la miglior difesa della regular season a Golden State, per cui ha lavorato benissimo con un materiale umano straordinario, perché è una squadra profonda con tantissime opzioni anche in panchina, e secondo me da un certo punto di vista la serie veramente l'ha fatta girare Kerr con la mossa di togliere Bogut. Certo, ne parlavamo ieri con Marco Crespi, che ci ha lasciato questa pennellata che è stata quella che ci stai raccontando tu. Simone, a presto, grazie, buon ritorno a New York da Cleveland, grazie a Simone Sandi dagli Stati Uniti, e ci riprendiamo domani ragazzi. Giorgio De Luca il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Giovanni Melchiorre in redazione, ciao a tutti. Cuore Denari è una grandissima situazione che potrebbe essere molto molto positiva per me, per la mia famiglia, non ci sposteremo di molto, ma io in Italia non voglio, non me la sento di indossare altre trasmissioni. Dal prossimo 14 luglio finirà il supporto per Windows Server 2003. Sei pronto ad aggiornare la tua infrastruttura IT? Passa ora al cloud con Aruba. Vai su cloud.it e prova gratis i nostri servizi con la tecnologia Microsoft Hyper-V. Con Aruba passare al cloud è facile, rapido e conviene. Vai ora su cloud.it.